puntolina e il gallo chirico, la gallina con la gonna e il gallo col palto. La gallina si ammalò, ma il gallo se ne infischiò e i pulcini furono di corsa a chiamare il suo dottor. Il dottore era il tacchino, l'infermiera l'avvoltoio, però l'ago dell'iniezione era la piuma del pavon. La gallina puntolina e il gallo chirico, la gallina con la gonna e il gallo col palto. La gallina si ammalò, ma il gallo se ne infischiò e i pulcini furono di corsa.